listening to Rock FM. Coppie celebri che si conoscevano da sempre, già alle elementari. Questo il fulcro della domanda di quest'oggi. Sì. Una coppia di musicisti che alle elementari mi ha recitato Alice nel Paese delle Meraviglie. Esatto. Forse, come ipotizzato dalla prima soluzione, Freak Antoni era il bianconiglio e Dandy Best era lo stregatto? Palo, nel senso che ci siamo andati vicinissimi. Lei ma non è mai questo. Fatto il bianconiglio? No, facevo lo stregatto. Bene. Scherzo, niente. E allora passiamo sbagliata. Alla successiva ipotesi, la B. Forse Steven Tyler era il bianconiglio e Joe Perry lo stregatto. O forse il contrario, ma comunque in ogni caso la risposta no! non è giusta. La risposta esatta era la C. Tornano Simon e Garfunkel. I grandi. Che dopo aver scoperto che prima di chiamarsi così si chiamava Tom e Jerry, oggi scopriamo che alle elementari mi facevano Alice nel Paese delle Meraviglie. Complimenti, Simon e Garfunkel. Il nostro affetto nei vostri confronti cresce. Cresce tantissimo. Chi dei due faceva lo stregato? Era Simon il bianconiglio e Garfunkel lo stregatto. Ma dai, così avrei dicono voluto avrei voluto vederli. Chissà, andiamo a cercare nei nostri archivi. Tuffiamoci. Forse ci saranno le foto. Cucucciù, Mrs. Robinson. Inizio dell'ultimo blocco affidato a Simon e Garfunkel. Bisogna star dietro a sti due qua, perché riservano sorprese. ripeto, dopo aver scoperto che si chiamavano Tom e Jerry, andiamo a scoprire che hanno fatto pure Alice nel Paese delle Meraviglie all'elementare. Complimenti al paio di ascoltatori che, a onor del vero, avevano azzeccato la risposta del test attitudinale di quest'oggi, e agli altri che probabilmente l'hanno azzeccata senza sentirsi giustamente in dovere di scrivercelo. A proposito di contatti, io vi segnalo che se volete telefonare a Rock FM non dovete usare il numero di SMS, sennò qua succede un patatrac. Per chi è interessato, perché vedo che continua a squillare, il numero è lo 0267 09 132, quindi risponde Spadino, 0267 09 132. Andiamo ad affrontare con grinta quest'ultimo blocco di PBR, la puntata 206, nella diretta di martedì 18 marzo 2008, l'anno della svolta, per un paio di motivi. A, perché non siamo ancora riusciti a contattare la Sciura Carla, e c'è sia da festeggiare che questa nuova proposta di franchising dei numeri del lotto, che potrebbe essere interessante. E poi quest'oggi andrà in onda l'ultimo provino per diventare musicisti rock con la bocca. Da oggi in avanti i provini sono ufficialmente chiusi e si passerà alla fase 2, che è quella del GF, il grande fattore, ovvero la nostra prossima, il nostro prossimo reality radiofonico, telefonico, che sta per partire. Il grande fattore, alla ricerca del fattore rock, prossimamente. Ma adesso c'è Billy Idol. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, I'm in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance as a woman to dance, then I'd be dancing on with myself. Smettetela di ballare tutti da soli, è arrivato il momento di imbracciare carta e penna, perché in linea telefonica con pane, burro e rock and roll c'è la regina dei numeri. Buongiorno Sciura Carla. Buongiorno, non sono la regina, dai. Allora, così per bisogna inventarsi un nome d'arte, sì, però. Sì, sì. Perché ma anche Sciura Carla secondo me suona bene. Però, sì, l'altro giorno ti ho sentito che hai chiamato cosa ho fatto? Al portinaio, si è offeso, ha detto che è il custode. Tu com'è che ti fai chiamare Carla? Io niente, ma sentivo quello là che brontolava. No, ma a dover scegliere, tra portinaio, portiere o custode? Beh, adesso si usa custode, però è sempre portiere. Portiere è più bello. È sempre. Anche portinaio, vabbè. Allora, iniziamo con un po' di querelle, perché l'amico che ci dice che ha vinto 235 euro e che ci siamo vantati fino adesso, sì, ci confessa di aver giocato 26, 47, 61. No, io non ci ma io non ce l'ho segnato niente. Ma non sono i nostri numeri. Però lui crede che glieli abbiamo dati noi. Scusa Carla, facciamoglielo credere. Sì, sì, sì. Non vedo perché. Poi magari si è confuso. Cioè, per me sì. Anche per me. Però... perché io adesso dovrò segnarli quelli che vi do, perché sennò non capisco più. Però, niente. Esatto, anche questo per far capire la serietà di questa rubrica per la quale non ci vantiamo di cose campate in aria, o è vero oppure no. Andiamo con i numeri di sto giro, Carla. Vai. Allora, per oggi giochiamo e giovedì se non escono. Sì. Napoli-Genova. Ok. 65. Sì. Vuoi la posizione? Sì. È la terza. Terza. Però se vogliono fare anche un euro sulla prima e un euro sulla quinta, perché io non l'ho perché messo, no? Il 10 a Bari in quinta e l'ho perso. Ah, ecco. Però mi accontento perché io ne ho presi tanti. Andiamo con gli altri numeri, vai. Allora, mi piace quando dici io ne ho presi tanti, ok? No, ti torna un po' di verve. No, eh? Dopo te lo dico. Va bene. Andiamo Napoli, qui. Napoli Genova 65. Sì. Lambo è 65 38. Sì. E 65 83. Ok. Mi do due ampi appena. Sì, sì, sì, l'abbiamo beccato. Ecco. Va bene, per i numeri ne riparliamo giovedì. Avrei una questione da risolvere con te, Carla, però. Perché? Perché qua è scattata la querela anche sulla musica liscio. Tu come la vedi sta storia del liscio? Col liscio bellissimo. Ah, ti trovi bene? Mi piace sentire il liscio. Ma mi vai in balera col marito? No, non è capace di ballare. È colpa sua, però. È colpa sua. Che sì, tu ci andresti. Ho capito. Sì. Beh, quindi l'ascolti ogni tanto la musica liscio? Sì, alla mattina. Quindi prima no... che vado. Non ci arrabbiamo per questa cosa che... Ah no, bisogna metterla tutta, no? Esatto, liscio, secondo me noi tutto. Dobbiamo fare i signori, esatto. Eh? Sì, sì, sì. No, ma perché sono stati loro del liscio che hanno detto che il rock era rumore e loro no, hai capito? Siamo stati offesi per primi. Allora, il rock è rock. Ecco, il liscio è liscio. Il liscio è liscio. Comunque, secondo me la nostra posizione è vincente, Carla, guarda. Boste, noi ci trinceriamo così. Comunque io ne ho presi tanti. Tanti tanti? No, ma non dirlo quanti, Carla, se no gli fai venire la carogna. Ma sì, con i numeri che ci avevi dato a noi o con gli altri della risposta? No, con i numeri che abbiamo vinto sabato. Allora vedi che sono usciti? No, allora è vero, ha vinto anche lui. No, è uscito il 10 e il 20. Eccolo lì, no, allora ha sbagliato io a dirlo. Esatto. Ah, tra l'altro non ti ho ancora parlato del franchising. Che cos'è il franchising? Il franchising sarebbe tipo, non so, la Benetton, no? Che c'ha i negozi in tutta Italia. O il McDonald's. Quella roba lì. Noi apriamo un franchising mio e tuo dei numeri di Carla, li chiamiamo i numeri di Carla e li mettiamo a Milano, li diamo a Carlo. A Firenze ci abbiamo questo nuovo radioascoltatore che ce li mette. Giusto. Ci manca Genova e la Romagna, ti va? Ma vabbè, sì, guarda che a Genova noi non ci guadagniamo niente. Noi non ci guadagniamo niente. No, però a Genova sì, direi di non prenderli perché io li prendo da uno da di là. Ah, perché Carlo è già genovese, dici? Carlo le belle genovese. Ho capito, ma per i radioascoltatori di Genova ce ne vuole uno là. Vabbè. Come volete, però non fate il mio nome quando andate a Genova, perché mi conoscono là. Ah sì? Bisogna stare attenti. Va bene. Hai capito? Allora a Genova facciamo il franchising in incognito. Ma sì, questo è il mio nome, se no non ve ne do più. Carla, ci sentiamo giovedì. Buona giornata. Ciao. Ciao. Sale il franchising, eh? Black Sabbath. Oh, Nick, che cercavi il tastierista, te l'abbiamo trovato. facile entrare in un negozio, comprarsi una Fender Stratocaster e diventare un gran smanettone della sei corde. Comoda così, eh? È tutto tradizionale, tutto nel solco della tradizione e già invece, prevista. No, perché noi di Pane, Burro e Rock'n'Roll rompiamo gli schemi. Esatto, rompiamo tutto quello che possiamo. Proponendovi di trasformarvi in musicisti rock con la bocca. Abbiamo un provinante! Evviva! Da dove chiama? Dovrebbe essere da Viareggio e dovrebbe chiamarsi Federico. Pronto? Pronto. Buona giornata, pronto. Federico. Ciao. Ciao, buona mattina. Sì, puoi farcela, Frick. Fagli anche un complimento se vuoi. Ben trovato. Ecco, ottimo. Federico, mettiamolo a suo agio, Frick, sì, perché sarà un po' emozionato. Sì. Confortevole, deve essere un provino confortevole. Federico, domande semplici: quanti anni hai? 20. Sicuro? Sì, no, sicuro. Sicuro. Sì, sono sicuro. Confermo io. Mestiere praticato? Studente. Di che cosa? Questa balla, Faccio biologia. Biologia. Ora questa biologia. Bugia, vabbè, poi ti scopriranno. Scherzo, scherzo, voglio farlo spiritoso per metterlo a suo agio. Federico, suoni anche uno strumento vero nella vita? Sì, suono la batteria. Ah, un batterista. Bene, interessante. Bene, bene. E quale strumento hai scelto per il provino? Ma secondo voi è batteria. La batteria. Ah, secondo me è la batteria. Molto coerente, molto coerente. Senti, possiamo, hai per caso una tua band? Vogliamo salutare la band? Certo, sono una band che ci chiamiamo The Lazy Rabbits. Come vi chiamate? The Lazy Rabbits. The Lazy Rabbits. Yeah. I conigli pigri. Pigri. Sì. Pigri. Frick potrebbe pigri. Apprezzare un nome così. Mi piace molto, infatti. Credo che gliela, come dire, ruberò. No. Ho fatto questo gesto, ma era per dire la carpirò in qualche modo. Ok, The Lazy Rabbit. The Lazy Rabbit. Direi che se sei pronto, Federico, che brano volevi farci sentire? Rock and roll delle Zeppelin. I batteristi mi puntano sempre sugli Zeppelin. Fate bene. Giusto. Caro Federico, noi siamo pronti, tu lo sei? Sì, lo sono. In diretta a Rock FM, Federico da Viareggio, dai The Lazy Rabbit, rock and roll dei Led Zeppelin. Vai Federico, spacca tutto! La tiene. Bravo. Sono sti piatti che partono da proprio. Bravo. Non perde un colpo. Sono parole. Bravissimo. Grazie Federico. Braverrimo. C'era quel piatto in levare che entrava. Bello. Che emozione. Emozionati. Era come sentire i Led Zeppelin, proprio solo con la batteria. Anzi, migliorati. Addirittura. Dai, si fa per dire, insomma, per mettere a proprio agio. A suo agio lo sperimentatore di oggi, Federico, il grande Federico da Viareggio, le faremo sapere. Esatto. Va bene, questa frase non mi è mai piaciuta, però va bene. Allora gliene diciamo. No, ma è un classico, esatto. Lei sarà accettato. Nel caso si facesse una vera band allargata, lei parteciperebbe? Certo. E allora arriveremo a Viareggio. Ciao Federico, grazie. Grazie. Ciao, complimenti. Ciao Federico, applausi. are you? Yahoo, ovviamente. 3 minuti alle 9 di quest'oggi. Gli ultimi saluti al volo, strombazzata speciale per la Rosy. Saluti a Glemi, Ale, Joe, Charlie. Vediamo se ne trovo altri al volo. Lo Spilung, Galba. Qui abbiamo il chitarrista dei Vicolo Inferno. Sabato mattina ha avuto Davide, il suo primo figlio. Auguroni! Questa è la fine. Ciao Vale, Tina, Marco, Mario. L'appuntamento è rinnovato a domani, in diretta ovviamente dalle 7 alle 9, per quella che sarà la puntata 207, e sarà anche il compleanno, il primo anno di Pane, Burro e Rock and Roll. Noi abbiamo già festeggiato la puntata 200, quindi pensavamo insomma di... Poi non è periodo di festeggiamenti, qua si respira aria di gran crisi, quindi non si festeggia più. A Pane, Burro e Rock and Roll penseremo a un bel programma di liscio, che tanto da quest'oggi è stato ufficialmente sdoganato. La sigla! Grazie a Spadino, grazie a Freak, grazie ad Isaac Rizzi e a Mr. T. Pane, burro e rock and roll. La tua colazione roll. Per colpa di del tempo, pane, burro e rock and roll, ho scassato un intervento di un nostro amico. Che riprenderemo nei prossimi giorni. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Buona giornata anche a Marco Sgarabaus, che vi accompagnerà fino al mezzodì. Dicono di sì. Dicevo, di chi lo dice? I palinsesti. Invece il mio problema, Mario, ti ricordi quello del raduno surrealista? Certo, del treno. Quello che aveva fatto il treno, esatto. Sì. Si è fatto risentire stamattina, no? Che raduno c'è? No, dice che a fine mese, dalle sue in montagna, no, dalle parti piemontese, per la chiusura degli impianti sciistici, ci si tuffa giù da una montagna con un affare costruito da te e devi cercare di superare il lago. Una specie di slitta? Sì. Quale lago? È il lago che c'è lì. Ghiacciato? Mi sa di no. Freddo, freddo, freddo? Mi sa di sì. Medaglia, medaglia, medaglia. Allora mi ha chiamato, io ho fatto un po', sai, sono occupato, ma ci sentiamo domani. Però prima o poi devo affrontarla. Tu digli che delle montagne sei esperto del calcio in salita, non in discesa. Hai ragione. È un'ottima idea. E comunque vedremo, ce ne occuperemo nelle prossime puntate. In buona, the next time. Buona bye giornata. Bye. Sono le 9. Vorrei tanto essere altrove. Non ti preoccupar, che domani tornerà.